il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Oggi al quadrifoglio parliamo di PFAS, sostanze perfluoroalchiliche. Cosa sono e cos'è successo e sta ancora succedendo nella zona del Veneto che va dall'ovest vicentino verso la pianura e il mare? Perché questi prodotti sono nelle acque? Chi ce li ha versati? Cosa sta facendo la regione che sembra forse essersi mossa un po' troppo tardi nonostante i dati fossero già noti? Insomma, tante questioni di cui ci parlerà oggi Marina Lecis, dottoressa in scienze forestali e consulente ambientale che si sta occupando proprio di questa questione. Benvenuta, dottoressa Lecis. Grazie dell'invito e saluto tutti gli ascoltatori. Ecco, quello che vorremmo sapere, partendo proprio dalla base, è avere un po' un quadro della situazione. Intanto, che cosa sono queste sostanze perfluoroalchiliche, se l'ho detto giusto? Sì, giustissimo, se ne conoscono almeno 12, sono una grande famiglia, sono state studiate e analizzate ancora dagli Stati Uniti, perché ricordiamo a tutti che c'è stato il caso della DuPont, hanno fatto anche un film con la Julia Roberts, di questo caso uguale all'Europa e quindi all'Italia, di contaminazione delle acque da PFAS, sostanze perfluoroalchiliche tossiche, persistenti nell'ambiente in tutte le matrici, in particolare nell'acqua. Infatti sono state sversate nella falda di Almisano, che è un sistema di multifalde abbastanza complesso, in provincia di Vicenza, a sud della Miteni, che è un'industria chimica che produce queste sostanze da parecchio tempo, quindi dagli anni 70, e che è stata individuata da ARPAV quale sorgente della contaminazione. Perché nel 2013 il Ministero dell'Ambiente chiese appunto ad ARPAV di individuare la sorgente, chi quindi avrebbe contaminato le falde acquifere, acque superficiali e anche acque destinate all'uso potabile, nonché agli animali, alla produzione agricola. Ecco. E appunto ARPAV nel maggio 2013 aveva accertato tramite i suoi studi e monitoraggi che si trattava della ditta Miteni di Trissino, nella Valle del Lagno. Ecco, qual è la situazione adesso, la zona interessata e quali sono i rischi per la popolazione? Sì, allora adesso parliamo di disastro su scala europea, purtroppo. La contaminazione supera i 180 km quadrati, quando nel 2013 si erano dichiarati 150 km quadrati, quindi vediamo che l'espansione è in aumento. Purtroppo ha interessato anche le acque superficiali, quindi tutto il bacino del Frattagorzone, che come ben sappiamo attraversa le province di Verona, Padova, Rovigo e Venezia, e quindi queste sostanze arrivano fino al mare, alla laguna di Chioggia. Ma il pericolo quale può essere? Intanto il pericolo viene dal bere l'acqua potabile o... Allora, è una questione complessa perché la regione ha dato dei valori obiettivo piuttosto alti, che da noi sono stati impugnati perché appunto ritenuti troppo ampli. Anche la comunità scientifica dice che bisogna avere dei valori molto più bassi, quella internazionale voglio dire. E dopodiché è stato anche depositato un esposto in procura di recente a Vicenza con il Movimento 5 Stelle e con Medicina Democratica. Quindi si parla di un'attività legale che inizia a dicembre 2015 e che è ancora in corso. Per rispondere al suo quesito, la tossicologa Loretta Bolgan, la dottoressa a cui io mi sono rivolta, che pertanto lavora con me da tanti anni, ha fatto un'analisi tossicologica di queste sostanze, dove è risultato che sono pericolose, persistenti, bioaccumulabili nell'organismo, quindi vuol dire che l'organismo non ce la fa a smaltirle, pertanto bioaccumulabili, e che sono interferenti con gli ormoni e neurotossiche. Pertanto non dovrebbero essere presenti nemmeno in taccia. La Silvia Benedetti, la parlamentare dei 5 Stelle, è la prima firmataria di una richiesta di legge che porti, dato il disastro ambientale, la gravità della contaminazione e la pericolosità delle sostanze, che porti il valore limite prossimo allo zero. Ecco, sappiamo che questa dei valori limite è una questione delicata, ne parliamo con più calma tra qualche minuto. Grazie. Grazie. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Parlando a te che insegui l'amore e costruisci la sua immagine ideale, che poi svanisce nel rumore della vita reale. Sarebbe meglio se ti riuscissi ad ascoltare e vivere per i piccoli miracoli nascosti in certi attimi che non torneranno più. Per questo tu potresti scegliere l'amore che fa sorridere come un'onda da prendere e a decidere sei tu. Sto pensando a te che insegui l'amore, la tua libertà è diventata una prigione. Ti piaci mai e vorresti cambiare? Sarebbe meglio se ti riuscissi ad accettare e vivere per i piccoli miracoli nascosti in certi attimi che non torneranno più. Per questo tu potresti scegliere l'amore che fa sorridere come un'onda da prendere e a decidere sei tu. Scegliere l'amore che fa sorridere come un'onda da prendere e a decidere sei tu. Decidere sei tu e a decidere sei tu. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi ci stiamo occupando della questione dei PFAS, queste sostanze che sono state riversate, rinvenute nelle acque di tutto il sistema del bacino del Frattagorzone. Lo stiamo facendo con Marina Lecis, dottoressa in scienze forestali e consulente ambientale. Dicevamo dei limiti di legge che sono forse troppo ampi, che è stata presentata una proposta di disegno di legge per rivederli. Questo forse perché non ci sono studi in materia, non ci sono dei dati reali che valutino con quali limiti ci sono delle conseguenze sull'uomo, oppure questi ci sono, siamo solamente in ritardo con le leggi. Esatto, in realtà ci sono degli studi a livello internazionale, mondiale, riconosciuti dalla comunità scientifica. E cito ad esempio le best practice USA EPA 2013 che ci danno dei veri valori limite per il PFOA e il PFOS nella catena alimentare. Precisiamo che proprio la Regione Veneto, con un monitoraggio del 2014-2015, ci informa e ci dà dei dati allarmanti di entrate in catena alimentare. Faccio un esempio della scardola pescata nel fiume Cassacina, che ha una quantità di PFOS pari a 57,4 microgrammi chilo, quando le normative di riferimento ci danno un valore limite preciso, ovvero che il FOS deve essere significativamente inferiore a 0,08 microgrammi chilo, con valore di riferimento USA EPA 2013, e sono veri i valori limite questi qui. E per il PFOA invece la sostanza deve essere significativamente inferiore a 0,2 microgrammi chilo, e in realtà il FOA è stato ritrovato, ad esempio, che è una di queste 12 sostanze, nelle verdure in quantità superiori a 1 microgrammo chilo. Ecco, credo di essermi spiegata abbastanza bene. Quindi vuol dire che in tutta la catena alimentare che corrisponde alle 5 ASL e ovviamente corrisponde alle province di Vicenza, Verona e Padova, dell'area contaminata che poi l'andremo a circoscrivere molto bene, hanno superato questi valori limite sanciti dalle best practice della USEPA 2013. Mentre la Regione Veneto si era interessata a dare esclusivamente dei valori obiettivo, che non sono dei valori limite, appunto si chiamano valori obiettivo, molto ampli. Vi faccio un esempio: nell'acqua potabile le stesse sostanze che ho citato prima, ad esempio il FOA, può essere presente e tollerato fino a 500 nanogrammi litro. Vedete che sono quantitativi 500 volte più alti rispetto al daily intake quotidiano di queste sostanze contenute negli alimenti. Questo ci fa capire che l'ordine di grandezza usato dalla regione è poco cautelativo. Noi nei nostri lavori, nei nostri ricorsi, nelle nostre perizie abbiamo ritenuto opportuno, per il principio di precauzione vista la pericolosità di queste sostanze che si bioaccumulano in tutti gli organismi viventi, di portarle ad un valore prossimo allo zero. La parlamentare 5 Stelle Silvia Benedetti infatti ha proposto questa normativa a livello nazionale, ma in una regione dove è già in corso un disastro ambientale, lo ricordiamo, su scala europea. È possibile dare qualche indicazione alla popolazione che vive in quelle zone? L'acqua si può bere, mi pare, adesso. Allora, l'acqua però si non può è bere, da quanto ho capito non è quello il primo, non l'unico problema. Sì, no, non è quello, perché è già entrata in catena alimentare, quindi voglio dire, è sfuggita di mano questa contaminazione e purtroppo, dico io, perché per le ragioni che poi verranno accertate, posso anche anticiparvi che è nata anche una class action e ho visto che si chiederanno i danni anche alla Regione Veneto, danni in sede civile sia alla Miteni quale sorgente contaminante e anche alla Regione Veneto. Abbiamo fatto questo quadro desolante, noi la ringraziamo per la disponibilità e penso che ci sentiremo fra non molto, magari per avere un aggiornamento, per sapere se ci sono state delle novità. Anche perché abbiamo nuovi dati che riguardano anche la provincia di Rovigo, quindi adesso insomma ci sono novità su questo fronte. Sì, su questa questione mi pare ci siano novità tutti i giorni. La ringrazio. Sì. A lei grazie, buona giornata. Visto che la dottoressa Lecis ci ha parlato di questa class action in corso, abbiamo pensato di sentire anche l'avvocato Giorgio Destro, che si sta occupando appunto della questione. Avvocato Destro, ci può dire esattamente che cosa state facendo e che cosa chiedete? Allora, devo dire che si è costituita in questi giorni, pochi giorni fa, un'associazione che si chiama La Terra dei FAS, che ha come obiettivo primo di tenere informati i vari associati sugli sviluppi delle indagini che sono in corso anche a livello privato e sul un aggiornamento fatto dai giornali in merito, ma soprattutto verrà valutata una class action nei confronti sia della Miteni che della Regione Veneto per mancata attenzione, diciamo così, sorveglianza per meglio dire, sull'attività di questa industria. L'iscrizione è gratuita e può essere contattata la sua presidente, la signora Prignola Lorenza, tramite email, che è molto semplice perché ha lo stesso nome dell'associazione, vale a dire La Terra dei FAS @libero.it. La ringraziamo e io credo che anche cercando su internet, come oggi si usa fare, non ci voglia molto a riuscire a rintracciare l'indirizzo di questa associazione, e quindi chi è interessato e ci sta ascoltando può chiedere informazioni ed eventualmente aderire a questa azione. Grazie. Grazie a lei. Andiamo quindi a chiudere la trasmissione, però non prima di aver dato una brevissima notizia, un appuntamento, perché questa settimana, da venerdì 6 a domenica 8 maggio, si svolge all'Ippodromo Le Padovanelle di Padova il Festival dell'Agricoltura, un vero e proprio festival in stile anglosassone interamente dedicato all'agricoltura e a tutti i suoi molteplici aspetti. Saranno 3 giorni di kermesse con al centro temi dall'alimentazione, l'ambiente, l'istruzione, il lavoro, risparmio energetico, sostenibilità e così via. In contemporaneo si svolgeranno altre 2 iniziative sempre all'interno dell'ippodromo. La prima edizione di Orti e Giardini Mostra Mercato, che promuove e incentiva l'incontro tra produttori e rivenditori di prodotti e servizi per il verde e il consumatore finale. E solo il 7 e l'8 maggio, quindi sabato e domenica, il Festival delle DOP Venete, una vetrina dei prodotti dell'agroalimentare regionale riconosciuti dai marchi di qualità dell'Unione Europea e il marchio regionale Qualità Verificata. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, 4 elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.